Stasera sono qui e vorrei trovare un senso alle parole per capire in questo mondo come vivere e lottare senza perdersi. Immagina di noi l'inverosimile, un posto surreale dove vivere e poi perdersi. Immagina che niente possa ucciderci, parlami di te come non fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano. Ritornerò, ritornerò, ritornerò da te. Stasera sono qui, sparirò alle mie continue decisioni, distruggendo giorni eterni e disumane convinzioni di non morire mai. Immagina di noi l'inverosimile, un posto surreale dove vivere e poi perdersi. Immagina che niente possa ucciderci, parlami di te come non fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano.